Questo gruppo è nato appunto nella galassia Wuming, in particolare nel blog JAP. È nata da una discussione sotto un post di JAP. Poi una serie di commentatori ha deciso di formare una mailing list e così è nato in modo del tutto spontaneo questo gruppo. Man mano si sono aggiunti altri membri e quindi si sono anche ampliati gli argomenti. All'inizio ci si è occupati soprattutto di Wikipedia, quindi le strategie e la presenza fascista, di fascisti anzi, in alcune voci in particolare. E poi altri spunti di studio e di analisi sono stati quelli del confine orientale. Come sappiamo, come abbiamo visto tante volte, le cose a volte si capiscono meglio stando alla periferia e non al centro, perché dal centro il punto di vista è sempre un po' falsato, e invece dalle periferie le cose si vedono meglio. Una delle periferie importanti per l'Italia, per la storia italiana soprattutto del Novecento, è appunto il confine orientale. Quindi un altro grande ambito di ricerca di Nicoletta Bourbaki è tuttora tutte le questioni legate alle foibe, l'esodo istriano. Ricordo che uno degli articoli, che sono stati più virali, si dice adesso, no? È stato proprio quello che contestava non solo una foto ma anche tutta una serie di interpretazioni rispetto alle foibe, no? Sì, esatto, perché alla base di tutte le nostre ricerche, di tutti i nostri studi, c'è l'uso del metodo storico. Nel senso che ci siamo resi conto, noi per primi, dell'importanza di una specie di abitudine, una specie di attenzione allo sguardo critico, non solo rispetto agli articoli che possiamo leggere, alle notizie, ai libri che vengono pubblicati o alle voci di Wikipedia, ma anche alle immagini, che poi tra l'altro sono il veicolo più potente, no? per far entrare anche alcune idee. E le fotografie e le immagini in particolare ci siamo resi conto che sono molto usate in ambito neofascista proprio per anche ribaltare la storia. Quindi continua ad essere molto virale il post che abbiamo dedicato proprio all'analisi delle foto legate al giorno del ricordo. Benedetta, questi sono tempi bui, no? Vediamo riaffiorare uno sdoganamento, come solitamente si suol dire, di tutta una serie di disvalori e di interpretazioni, anche dal punto di vista storico, visto che si parla di questo, che pensavamo in qualche maniera che potessero andare nel dimenticatoio. Invece rinascono con nuova linfa e anche sembra quasi parte di un progetto in qualche maniera per recuperare l'immaginario collettivo. Sì, è vero, ci sembra che in realtà questo momento è proprio il momento giusto per rilanciare, appunto per contrattaccare. Nel senso che un atteggiamento difensivo, un atteggiamento anche un po' pessimista, non è in realtà quello veramente efficace. Dal nostro punto di vista, che è storico, e così noi continuiamo a proporre questa attenzione. L'attenzione critica significa semplicemente che davanti a ogni evento, a ogni situazione, noi ci dobbiamo fare delle domande e non avere l'atteggiamento semplicemente passivo, che è sicuramente emotivamente comprensibile, ma che ci rende paralizzati di fronte alla realtà. Invece cominciare a farsi delle domande è già un modo per contrattaccare, è già un modo per essere attivi e non essere completamente schiacciati da questo immaginario. E l'immaginario è molto importante ed è sull'immaginario anche che bisogna lavorare e bisogna insistere, quello di cui ci siamo resi conto è che la rete è veramente una piazza, nel senso che ci sono persone di tutti i tipi, e così come abbiamo sempre detto che l'importanza delle piazze è stare nella piazza e occupare la piazza, stare nel territorio, nello stesso modo dobbiamo fare con la rete, che sì è una piazza virtuale, ma è una piazza in cui le persone stanno veramente, quindi anche noi dobbiamo stare nella piazza che è la rete, che è il web. Sì, un tempo si pensava che in qualche maniera la frammentazione sia delle notizie che dell'interpretazione di ciò che è avvenuto nella storia umana e nella mancanza di chiavi di lettura fossero i principali nemici. In verità adesso ciò che sta passando e che, di cui vi siete resi conto, mi sembra di capire, è che attraverso la rete vengono fuori, attraverso le fake news cosiddette, una serie di interpretazioni che vanno a riempire dei vuoti e creano degli enclaves nell'immaginario collettivo di interpretazione assolutamente antitetica alla realtà. Esatto, esatto. Queste interpretazioni quasi sempre sembrano fondarsi sul buon senso. Il nostro storico di riferimento, che è Mark Bloch, diceva proprio che il buon senso è il primo nemico di chi vuole fare una ricerca storica, perché il buon senso ti fa sembrare normali, naturali delle cose che magari non lo sono, oppure ti fa interpretare anche un oggetto che vedi, una situazione che vedi, nel modo non corretto. Lui fa l'esempio, nella Prima Guerra Mondiale, fa l'esempio dell'arrivo delle truppe tedesche in Belgio e i soldati tedeschi si trovano davanti le case belghe che hanno sulle facciate dei fori che venivano usati dai muratori per impiantare le impalcature e ridipingere le facciate. Quindi era semplicemente un espediente tecnico. Quando sono arrivati i soldati che venivano dal fronte, dalla trincea, hanno interpretato quei buchi come delle postazioni di cecchini. Quindi hanno cominciato a sparare e a compiere tragedie e stragi semplicemente perché avevano interpretato non correttamente questi buchi, questi fori che erano nelle facciate delle case. Quindi la mancanza di conoscenza poi genera mostri. Esatto, esatto, esatto. Poi qui ci sarebbe anche tanto da dire sulla differenza tra informazione e conoscenza, perché a volte noi pensiamo di conoscere qualcosa mentre siamo semplicemente informati sul fatto che sta avvenendo qualcosa. Informati significa che semplicemente noi sappiamo appunto che sta avvenendo qualcosa, ma non è che conosciamo, certo, quella. Però c'è chi disconosce appositamente, diventa una sorta di strategia politica. Allora cosa fate voi? Cosa avete deciso di fare per contrapporvi a questa offensiva, diciamo così, in questo periodo? Sì, allora quello che noi abbiamo deciso di fare è concentrarci su alcuni grandi temi della storia, della storiografia, della storia soprattutto del Novecento, e abbiamo cominciato pazientemente a rifare la strada, diciamo, di queste storie che vengono raccontate, di queste panzane che vengono raccontate, rifare la storia, verificarle attraverso i documenti, attraverso le testimonianze, attraverso i libri e così, per verificarle. Quasi sempre è venuto fuori che la storia che veniva raccontata dai neofascisti non era la storia vera, diciamo, reale, quello che era realmente accaduto. E questa guida che voi presentate qui al Festival di Letteratura Sociale, di cosa si tratta? Come è stato pensato e realizzato? Allora, sì, questa è una guida didattica che è nata perché a un certo punto abbiamo deciso di sistematizzare un po' il metodo che noi seguiamo normalmente per le nostre ricerche, per i nostri lavori. Quello che si intitola Questo chi lo dice e perché, lo dico per... Sì, esatto, esatto. Soprattutto perché? sì, è una guida didattica nel senso che presenta una parte teorica, un po' di spiegazione del metodo storico, eccetera, e poi ci sono anche degli esempi pratici e una serie di questionari e di domande. Perché, appunto, anche il titolo della guida è fatto di domande, perché la cosa principale che ci sembra importante divulgare è che noi dobbiamo farci delle domande. Quindi quando leggiamo qualcosa, la prima cosa da chiederci è: chi ha scritto questo? Perché l'ha scritto? Per chi l'ha scritto? Già rispondere a queste domande ci aiuta a dare un contesto a quello che stiamo leggendo e a cominciare a interpretarlo.